GR24, il sole 24 ore. Il ministro Patroni Griffi nella pubblica amministrazione, 260.000 precari, non è possibile stabilizzare tutti. Contratto delle tute blu, FIM e WILM firmano, la FIOM contesta in corteo. Dopo la decisione della Consulta sullo Stato mafia, ingroia, sentenza tutta politica. Corruzione, l'Italia scivola di 3 posizioni, è 72esima allo stesso livello della Tunisia. Buon pomeriggio dalla redazione di Anna Rita D'Ambrosio. L'avete sentito nei titoli, nella pubblica amministrazione ci sono 260.000 precari, ma non si può pensare ad una stabilizzazione di massa. Sono parole che ha pronunciato questa mattina il ministro Patroni Griffi. Il ministro della funzione pubblica chiude di fatto l'ipotesi di una stabilizzazione dell'intera platea dei precari, ce ne sono 260.000, spiega Patroni Griffi. Non si può pensare ad una regolarizzazione di massa, sarebbe contro il dettato costituzionale e annullerebbe la possibilità di entrata nelle amministrazioni pubbliche dei giovani. Di questi 260.000, 130.000 sono nella scuola, 115.000 nella sanità e enti locali e 15.000 nelle amministrazioni centrali. Ogni soluzione, ha detto ancora il ministro, deve essere graduale, ma quale allora la via d'uscita ad una situazione molto delicata? Tra le possibilità, ha spiegato ancora Patroni Griffi, cioè la deroga al limite massimo per i contratti a termine, 36 mesi, portandola in alcuni casi specifici a 60 mesi. Altro capitolo, le pensioni nella pubblica amministrazione. Secondo il ministro, il personale che risulterà in eccedenza sulla base della spending review e che avrà entro il 2014 i requisiti per il pensionamento precedenti la riforma Fornero potrà andare in pensione con le vecchie regole. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, noi parliamo dell'altro tema in primo piano, ovvero il contratto dei metalmeccanici. FIM e WILM firmano, la FIOM invece contesta. 130 euro di aumento in 3 anni per oltre 1.600.000 lavoratori. Dopo 4 mesi di trattativa è dunque arrivata alla firma del contratto dei metalmeccanici, un accordo separato. A raggiungerlo infatti sono Federmeccanica, FIM e WILM, mentre la FIOM, non firmataria del precedente e mai convocata al tavolo del negoziato, resta fuori. FIOM che oggi e domani ha indetto uno sciopero generale di 8 ore insieme a manifestazioni in tutta Italia. Soddisfatti invece gli altri sindacati, è un risultato importante per il settore. Commenta il leader della WILM, Rocco Palombella, considerata la grave recessione in atto nel comparto e nel paese. Da oggi, aggiunge il segretario generale della FIM CISL, Giuseppe Farina, i lavoratori avranno maggiori certezze salariali e di stabilità del lavoro. Mentre Giorgio Airaudo della FIOM sfida gli altri sindacati e su Twitter chiede di sottoporre a primarie il nuovo contratto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dovranno essere distrutte le 4 conversazioni telefoniche avvenute tra il capo dello Stato napoletano e l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino e acquisite dalla Procura di Palermo nel corso dell'indagine sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, che ha quindi accolto il ricorso di Napolitano contro i giudici di Palermo. I magistrati avevano messo sotto controllo 6 utenze telefoniche di Mancino e in questo modo erano venuti a disporre delle 4 telefonate avvenute tra il dicembre 2011 e il febbraio di quest'anno. Ma secondo Napolitano, i colloqui del capo dello Stato non possono essere intercettati. Di qui la decisione di sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Le decisioni della Consulta non si commentano, ne prendiamo atto. Erano state le prime parole ieri sera del procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo. Questa mattina Messineo è stato raggiunto al telefono dalla nostra Anna Marino e così ha commentato anche sulla reazione dell'ex PM Antonio Ingroia. Io ritengo che le decisioni giurisdizionali non si debbano commentare, tanto più quando ancora non ne sono note le motivazioni, come in questo caso. In ogni caso vanno rispettate ed è ciò che faremo non appena ne avremo cognizione completa, cioè eseguiremo le prescrizioni, le statuizioni della decisione della Corte Costituzionale. Qualcuno, come Ingroia, appunto, ha polemizzato per il fatto che si tratta di una sentenza politica, è così? Le opinioni del dottor Ingroia sono opinioni del dottor Ingroia. Io non qualifico le sentenze sono sentenze e quindi atti di giustizia e come tali vanno accolte e rispettate ed eseguite ovviamente nel momento in cui se ne conosce intero il contenuto. E di questo parleremo tra pochissimo anche in Italia in controluce alle 13.30. Il punto di Stefano Folli. Ha ragione l'associazione dei magistrati, non è il caso di dare una lettura politica della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dato ragione al Quirinale nel conflitto di attribuzione con la Procura di Palermo. Nessun risvolto politico, ma solo un punto di chiarezza costituzionale. Le intercettazioni telefoniche che coinvolgono in modo fortuito il capo dello Stato vanno distrutte sempre, senza se e senza ma, a prescindere dal loro contenuto. Può sembrare un tema remoto, lontano dalle questioni che toccano in questo momento la vita dei cittadini, ma anche da questo dipende l'equilibrio istituzionale del Paese e dunque la serenità del Capo dello Stato che di questi equilibri è il garante. La Corte ha detto una parola definitiva circa un punto su cui c'erano dubbi ed è bene che sia così. E siamo al dibattito sulla legge elettorale. Per sapere cosa è accaduto oggi dopo la quasi rottura di ieri ci colleghiamo in diretta con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Anna Rita, proprio non è accaduto nulla, questo è il dramma. Il PD continua a dire no alla proposta di legge elettorale, firma Gaetano Quagliariello del PDL e chiede proprio al Popolo delle Libertà di dire chiaramente cosa vuole. No ad un testo peggiore del Porcello, spiega Nicola Latorre, i democratici vogliono una legge che garantisca la scelta degli eletti e la governabilità. Dal canto suo il PDL contrattacca, secondo Maurizio Paniz non è vero che il Popolo della Libertà vuole tenere questo sistema elettorale, in realtà anche gli altri partiti desiderano tenere il Porcellum tanto quanto il PDL. Nella bozza Quagliariello ricordiamo un premietto di 50 deputati, ma nello stesso partito Roberto Formigoni spiega invece che sarebbe un errore gravissimo lasciare l'attuale sistema di voto perché bisogna dare agli elettori la possibilità di scegliere i parlamentari. Nell'UDC di Giampiero D'Alia sprona a trovare l'accordo, dice la palla però è in mano a PD e PDL. Per il leghista Roberto Calderoli, lo ricordiamo, autore proprio della legge attuale, siamo a un punto morto e lui è rimasto l'unico a voler cambiare il Porcellum. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, ed è caos nel PDL dove non c'è ancora una decisione sulla nuova ricandidatura di Berlusconi. Intanto Maroni conferma l'accordo con Giulio Tremonti. Le indiscrezioni dicono che il suo annuncio lo avrebbe già fatto ieri sera ai suoi fedelissimi allo stadio di San Siro dopo la partita di Champions del Milan. Silvio Berlusconi avrebbe deciso di ricandidarsi e sarebbe pronto a rompere con chi nel Popolo delle Libertà non è d'accordo con la sua idea di rinnovamento del partito. Anche i vertici del PDL, però, sempre secondo indiscrezioni, sarebbero pronti ad isolarlo. Dal pranzo di lavoro in programma oggi a Palazzo Grazioli potrebbero quindi uscire novità importanti. Anche se ufficialmente restano ancora programmate per il 16 dicembre, le primarie sembrano destinate ad essere cancellate. I veri nodi da sciogliere però sono altri. Sul tavolo ci sono infatti anche la legge elettorale, l'ultimatum al governo sull'Election Day, i problemi per le casse del partito e soprattutto il nuovo assetto del PDL al quale il Cavaliere ha lavorato in questi giorni, tutte questioni che dividono il Popolo delle Libertà. Nel frattempo qualche novità per il centrodestra arriva da Milano, dove questa mattina il leader della Lega Maroni ha sottoscritto il manifesto dell'ex ministro dell'economia Tremonti, la cui lista elettorale sosterrà la sua candidatura alle regionali in Lombardia e sarà alleata con il Carroccio anche alle politiche. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è una novità che riguarda le elezioni nel Lazio, il braccio di ferro con l'ex presidente Polverini sulla data del voto inizialmente fissata per il 10 e 11 febbraio. Ebbene, la prima data utile per le elezioni nel Lazio è il 3-4 febbraio, data in cui dovranno svolgersi le elezioni regionali. Lo ha deciso poco fa il TAR del Lazio, annullando il decreto dunque del presidente Polverini. Lo avete sentito nei titoli, Italia e Grecia peggiorano nella classifica della corruzione nel consueto rapporto annuale di Transparency International. 42 punti su 100. L'Italia peggiora ancora sul fronte delle tangenti a politici e pubblici funzionari. Lo afferma il rapporto 2012 di Transparency International, una ONG basata a Berlino che da 20 anni misura la corruzione in 176 paesi. Un fenomeno che, spiega, non è solo una busta piena di soldi, ma un modo per trasferire a un'oligarchia i vantaggi che dovrebbero essere di tutti. Italia messa male, dunque, all'interno di un continente europeo che occupa 11 dei migliori 20 posti. Noi siamo 72esimi, superati da Brasile, Romania e Ghana. Peggio nell'Europa 27 solo Bulgaria e Grecia, precipitata a quota 100 con Colombia, Gibuti ed India. Oltre alle superstar scandinave aggrappate da sempre ai primi posti, la palma della minima corruzione pubblica viene divisa tra Nuova Zelanda, Svizzera, Olanda, con una Germania al 13° posto e la Francia al 23°. Insomma, la corruzione non stringe la cinghia, ma al contrario sembra alimentarsi della crisi economica e finanziaria. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo all'aggiornamento dai mercati finanziari con la nostra Deborah Rosciani. Deborah. Sì, buongiorno. Allora, abbiamo una giornata in questo momento ancora positiva per i mercati, ma in una corsa che si è nettamente ridimensionata rispetto ad una partenza più brillante. Londra, Parigi, Francoforte e la Spagna sono arrivate a guadagnare 0,5 percentuale per poi ritracciare adesso il guadagno medio di circa lo 0,2%. Milano, in avvio, addirittura doppiava le altre piazze europee, segnava un punto di rialzo, adesso segna più 0,11%, però accontentiamoci di questa giornata di consolidamento dei rialzi di ieri. I rialzi di ieri sono stati determinati da numerosi fattori, in particolar modo anche dal nuovo allentamento sul mercato obbligazionario che ha visto lo spread fra Italia e Germania sul titolo decennale scendere fino a 292 punti base per poi ritornare sui 300. Stamattina quota 309, ma c'è da segnalare anche che c'è stata un'asta di titoli di Stato tedeschi che ha visto ancora rendimenti negativi per i Bund, e questo porta naturalmente ad un nuovo allargamento dello spread perché è colpa dei titoli tedeschi che stanno scendendo nel loro rendimento. È andata bene anche un'asta di titoli di Stato spagnoli. Il Tesoro iberico ha collocato titoli a 3, 7, 10 anni per 4 miliardi e 250 milioni di euro con tassi tutti in discesa. Il bonus a 10 anni è sceso al 5,29%. Peraltro stamattina anche il fondo ESM ha lanciato titoli di debito per 39 miliardi e mezzo di euro per raccogliere fondi con cui permettere la ricapitalizzazione del sistema bancario spagnolo. Per ora è tutto. Grazie Deborah, e noi torniamo in Egitto dopo la giornata di forte tensione che si è vissuta ieri. Continuano i sit-in di protesta contro il presidente Morsi al Cairo, dove stamattina il Fronte di Salvezza Nazionale, che raccoglie 18 movimenti di opposizione di ispirazione laica e liberale, ha formalizzato le sue richieste: ritiro del decreto presidenziale che aumenta i poteri del capo dello Stato, annullamento del referendum costituzionale del 15 dicembre e formazione di una nuova assemblea costituente che rifletta, dice, tutte le categorie della società egiziana. Ma soprattutto il fronte ha dato un ultimatum a Morsi: se non risponde entro venerdì, dice, perderà la sua legittimità. Ma non solo per questo, le prossime ore saranno incandescenti nella capitale egiziana. I Fratelli Musulmani e le forze popolari, infatti, sostenitori del presidente, hanno convocato una manifestazione per oggi pomeriggio davanti al palazzo presidenziale, da cui ieri lo stesso Morsi si è dovuto allontanare per le violente proteste della opposizione. In piazza si troveranno quindi entrambe le fazioni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed il premier Mario Monti è intervenuto questa mattina sulla missione italiana in Libano. Lo ha fatto al termine dell'incontro con il premier libanese Mikati a Palazzo Chigi. Voglio ribadire che l'Italia non sta considerando ulteriori riduzioni numeriche del nostro contingente di stanza nel Libano. Questo perché riteniamo che la forza UNIFIL sia più necessaria che mai, data la situazione nella regione. E adesso parliamo di un'ultima ora che arriva da Genova, dove la Guardia di Finanza è nelle stanze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Liguria. Questo per acquisire documenti sulle spese dei gruppi e dell'Assemblea, operazioni che la Guardia di Finanza nei mesi scorsi ha effettuato anche in altre sedi degli uffici di presidenza, in altre regioni. L'attività è legata ai controlli avviati appunto in diversi consigli regionali. Non ci sono ancora degli aggiornamenti rispetto a questa situazione. Quindi ultima ora, Guardia di Finanza negli uffici del Consiglio regionale della Liguria. Vasta operazione della Guardia di Finanza di Roma, tra gli arrestati avvocati, commercialisti ed imprenditori capitolini. Le accuse riguardano la presunta appropriazione di svariati milioni di euro, insinuando in alcune procedure fallimentari dei crediti inesistenti. Secondo le indagini, le somme sottratte illecitamente sarebbero state in gran parte incassate da società estere attraverso accrediti su conti correnti presso presso istituti di credito ciprioti ed elvetici. È in corso la conferenza stampa con tutti i dettagli che evidentemente vi forniremo nel corso delle prossime edizioni. Per la cronaca in primo piano, come detto, ritorna il delitto di Avetrana. Ho ucciso io Sara, questo rimorso non lo posso più portare dentro di me. Lo ha detto questa mattina Michele Misseri, deponendo in corte d'assise per il processo Scazzi. Subito dopo queste parole il suo difensore ha rimesso il mandato. Il contadino inizialmente, lo ricorderete, confessò di aver ucciso la nipote perché aveva respinto le sue avanze. Poi chiamò in correità la figlia Sabrina, addossandole le colpe. Una vicenda dunque ancora molto lontana da alla verità. E noi restiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo ad Ascoli Piceno, dove la terra ha tremato nella notte. Hanno avuto molta paura gli abitanti di Ascoli Piceno, sorpresi dal terremoto questa notte mentre dormivano. Tre scosse nel giro di pochi minuti, dalle 2.12 alle 2.22. La prima è stata quasi impercettibile, la seconda però di magnitudo 4 l'hanno sentita in molti. Per un po' la gente è rimasta per strada, poi passata la paura quasi tutti sono tornati a casa. Da questa mattina all'alba i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile sono in giro per la ricognizione. A Offida, uno dei centri più vicini all'epicentro, già stanotte è scattato il piano di protezione civile comunale. Ad Ascoli e nel Piceno in generale è ancora vivo il ricordo del terremoto dell'Aquila, che fu avvertito in maniera significativa causando danni ai palazzi più antichi. Questa volta però, stando a quanto ci raccontano dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, non si segnalano danni agli edifici. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Divieto di costruire case e imprese in aree a rischio idrogeologico molto elevato, nuova tassazione dei carburanti per alimentare un fondo speciale e obbligo di assicurazione contro i danni climatici. Sono questi i punti centrali e destinati a far discutere delle azioni prioritarie contenute nella bozza sulle linee strategiche per la tutela del territorio che il ministro dell'Ambiente Clini ha inviato al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Secondo una definizione del Ministero dell'Ambiente e dell'Unione delle Province, in Italia sono 5.581 i municipi a rischio idrogeologico a potenziale più alto. Noi cambiamo argomento. Da domani a domenica a Roma più libri più libera, l'unica fiera in Europa dedicata agli editori piccoli e medi. Presentazione di libri, incontri con gli scrittori, dibattiti e naturalmente tanti stand dove trovare vere e proprie chicche. Ma cosa offrono le case editrici indipendenti rispetto alle grandi? Alessandra Tedesco l'ha chiesto a Fabio Del Giudice dell'AIE, l'associazione editori che organizza la fiera romana. Sicuramente quello che potremmo definire il valore della ricerca e della sperimentazione. Le piccole case editrici hanno l'opportunità, grazie alla loro agilità, di andare a ricercare i nuovi autori, gli esordienti, gli autori stranieri più conosciuti, si muovono in maniera più agile sul mercato e quindi forniscono tutto quanto quell'enorme patrimonio culturale che poi, quando comincia ad affermarsi da un punto di vista anche commerciale, non solo culturale, passa molto spesso all'editoria più grande. A 100 anni dalla nascita di Giulio Einaudi, Milano fino al 13 gennaio ospita Palazzo Reale una mostra che è una sorta di riflessione filologica sul lavoro di uno dei più grandi editori italiani di tutti i tempi. Il titolo dell'esposizione è Giulio Einaudi, l'arte di pubblicare. Sentiamo Malcolm Einaudi, presidente della Fondazione Einaudi, al microfono della nostra Adriana Fracchia. Il titolo della mostra è diventato Giulio Einaudi, l'arte di pubblicare, che riprende come logica non tanto la parola editoria, ma quella semmai anglosassona del publishing, cioè del rendere pubblico, della diffusione della cultura, che era poi l'altro grande elemento contraddistintivo dell'ideologia einaudiana, cioè di portare la qualità a livello di distribuzione popolare in qualche modo, non per eruditi o per specialisti. E sulla scia di questa intuizione abbiamo identificato in due collane più significative di altre che in qualche maniera contrapponendosi si integravano su due polarità molto interessanti e che radunano in un'unica sede la percezione di quelli che sono stati 30 anni di lavoro editoriale di alta qualità, di primo livello, creando un oggetto libro in cui l'identità tra contenuto e contenitore veniva studiata e distillata con una sapienza, un gusto, una sensibilità che forse non hanno avuto uguali. Ed è tutto per questa edizione. Io ringrazio in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che questa edizione è stata curata da Daniele Biacchessi, che ritroverete tra poco in Italia in controluce. Il GR invece torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Lohengrin promosso dai giovani. Ieri sera una decina di minuti di applausi e alcuni fischi di approvazione per l'anteprima dedicata ai ragazzi dell'opera di Richard Wagner, che venerdì inaugurerà la stagione della Scala. Tutti gli artisti sono stati applauditi, ma gli applausi si sono intensificati all'apparire al proscenio del maestro Daniel Barenboim. Il prefetto di Palermo Fabio Carapezza Guttuso è stato nominato commissario straordinario della Fondazione Lirico-Sinfonica Teatro Massimo per un periodo di 6 mesi. Lo annuncia il Ministero dei Beni Culturali, spiegando che ragione del commissariamento è la prolungata paralisi dell'attività ordinaria dell'ente. Dopo 8 mesi di vertenza e 3 mesi di occupazione è stata raggiunta un'ipotesi d'accordo tra Cinecittà Studios, Ministero dei Beni Culturali e sindacati. L'intesa prevede garanzie occupazionali per i dipendenti dei rami d'azienda ceduti o affittati. Decisi i nomi dei vincitori dell'edizione 2012 di Area Sanremo. Tra loro 2 si aggiungeranno ai 6 giovani già scelti per il Festival di Sanremo 2013. Oggi i vincitori sosterranno l'audizione davanti alla Commissione RAI. La mia voce si fa sottile, torneranno la luce di maggio e le sere infinite. Accompagno il tuo arrivo con un battere lieve come il suono dei passi sulla neve. Traslocano invece da Sanremo a Novara le Targhe Tenco. Da domani a sabato un festival di 3 giorni che si concluderà con la consegna dei premi assegnati dai giornalisti musicali italiani. Un ex aequo per il miglior disco dell'anno, Padania degli After Hours e Come il suono dei passi sulla neve di Zibba. Questo per me e per noi come entità musicale rappresenta assolutamente un punto di partenza. È come se ci avessero dato una batteria in più, no? Una mezza torcia in più nel caricatore delle pile, un po' di autonomia in più per andare avanti. Il premio Tenco assolutamente serve tantissimo. Vincere questa targa è qualcosa in più in tasca a livello di esperienza e assolutamente il fatto che, come diceva Enrico De Angelis, quando loro ci hanno tra virgolette scoperti portandoci sul palco del Tenco del 2010 eravamo un po' più sconosciuti, adesso il nostro nome è lì in mezzo a una lista di nomi giganteschi di cantanti, di cantautori e autori italiani, quindi adesso esistiamo. Bello. Chiudiamo con il teatro. Fino al 9 dicembre all'Ambra Iovinelli di Roma Il sogno di una notte di mezza estate con la compagnia di comici di Zelig. La regia è di Joelle Dix. Sentiamolo al microfono di Elisabetta Fiorito. Un adattamento in chiave contemporanea, privilegiando in particolare la parte comica, è affidata a un gruppo di comici e di comiche piuttosto famosi per la televisione. Non abbiamo voluto fare un'operazione di massacro di Shakespeare, cioè prendere Shakespeare per fare del cabaret. Abbiamo voluto fare il contrario, abbiamo voluto in qualche modo dimostrare che i comici che fanno soltanto battute in televisione spesso sono stretti in quel ruolo, hanno voglia di dimostrare quanto sono più duttili e versatili. E per il GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.